suitcase of hope. A bundle of belongings isn't the only thing a refugee brings to his new country. Secondo un sondaggio pubblicato lunedì scorso da Demos Repubblica, l'83% degli italiani vorrebbe rafforzare i controlli alle frontiere e sarebbe disposto a superare il trattato di Schengen, che dà ai cittadini europei la possibilità di circolare liberamente sul suolo dell'Unione. A tanto arrivano le conseguenze di una narrazione emergenziale del fenomeno della migrazione. Se siamo disposti a rinunciare a una nostra libertà è perché hanno fatto breccia la paura, le bufale, il senso di incapacità che l'Europa dimostra nell'affrontare, o meglio, nel non affrontare il fenomeno. Il titolo di questo nuovo format significa Valigia della Speranza, perché vogliamo sottolineare innanzitutto che stiamo parlando di persone, non di numeri. Dietro ogni migrante che fugge da guerra o miseria c'è una storia, spesso dolorosa, che forse è opportuno raccontare per conoscere le nuove persone con cui viviamo quotidianamente. Il sottotitolo, un fagotto di oggetti, non è l'unica cosa che un rifugiato porta nel suo nuovo paese, è una frase attribuita ad Albert Einstein, anch'esso un rifugiato, che penso descriva bene lo spirito di questa nuova trasmissione. In questa prima puntata parleremo dei Ghost Refugees, i rifugiati fantasma, circa 70.000 persone, in maggioranza donne e bambini, intrappolate nel deserto della Giordania. Io sono Alessandro Canella e questa è Suitcase of Hope. Buon ascolto. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi le retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie Aïcha, si tu m'aimes, Ghost Refugees, rifugiati fantasma, è questo il nome che viene dato a molte migliaia di persone che vivono in Siria e rimangono intrappolate tra il paese in guerra e magari una frontiera che trovano chiusa. Pensate che ad esempio nel deserto della Giordania, al confine con la Siria, ci sono 70.000 persone, in maggioranza donne e bambini, che appunto vivono nel deserto in condizioni precarie, ma poi ci sono anche altre migliaia di persone che vivono sono in questo limbo senza appunto sapere quale sarà il loro destino. A parlarci dei rifugiati fantasma è Federica Nogarotto, direttrice del supporto alle operazioni di Medici Senza Frontiere Italia. 70.000 alla frontiera con la Giordania, e poi possiamo anche aggiungersi i 300.000 invece che sono completamente isolati nella parte di Aleppo, quindi al nord. Poi possiamo parlare di quelli alla frontiera con il Libano. Insomma, è tutta la Siria dove c'è gente che è intrappolata in varie macchie in giro per il paese, dove non possono uscire da queste zone dove sono circondati, e gli aiuti non possono andare verso di loro. Questo è il grosso problema, il fatto di avere delle grosse gruppi della popolazione, parliamo veramente di centinaia di migliaia di persone che sono completamente isolati, sono bombardati e gli aiuti non riescono ad arrivare a loro. Come si sono prodotte queste situazioni? Sono le dinamiche della guerra che negli ultimi 6 anni e mezzo hanno fatto in modo tale che la gente cercasse rifugio nelle zone che erano apparentemente più tranquille, e quindi un po' alla volta vengono messi all'angolo praticamente. Poi i paesi che stanno accogliendo i rifugiati e che stanno in tutta la parte della frontiera, quindi Giordania sul sud, il Libano al nord, la Turchia, che hanno già accolto centinaia di migliaia, milioni di persone, stanno chiedendo una regolamentazione di questo flusso migratorio di gente che sta fuggendo, e quindi a volte si trovano intrappolati tra il territorio dove loro in teoria avevano cercato di trovare una zona più tranquilla, ma che però adesso viene bombardato, e il fatto di poter uscire e quindi entrare in un paese straniero, come possono essere quelli citati prima. In particolare Medici Senza Frontiere cura un progetto a The Berm, che è un terrapieno, giusto? Ma allora, noi siamo in tutta la Siria, in effetti, in tutte le zone che citavo prima, quindi tutta la parte dell'entroterra, però seguendo i confini con i paesi che citavo prima. In tutto abbiamo 150, supportiamo 150 strutture mediche, quindi non è solo una, solo Berm, ma veramente sono molte di queste strutture, con personale locale, con medici, infermieri locali con cui siamo in contatto giornaliero. Mandiamo materiale medico, medicinali e materiale medico in generale, perché loro possano continuare a lavorare. La cosa drammatica è che soltanto nel 2016 ci sono stati 31 attacchi a strutture mediche, di cui 19 erano strutture mediche supportate da Medici Senza Frontiere. Ora, quando avviene un attacco ad una struttura medica, vuol dire che quella struttura medica non esiste più, quindi sicuramente c'è personale medico, che è già molto poco quello all'interno del territorio siriano, che viene ucciso, e chi resta ancora in vita deve trovare un altro posto dove rimettere in piedi l'assistenza sanitaria alla popolazione. Molto spesso sono cantine, sono garage, sono, che so, gli vecchi pollai, cioè sono zone, sono luoghi che uno mai direbbe che quella lì è una struttura medica. Proprio su questo allora colgo l'occasione che ha introdotto lei il tema per fare una domanda. Secondo lei perché si è presa questa, purtroppo sembra un'abitudine, di bombardare ospedali anche se da campo? Allora, la ringrazio per aver utilizzato questa parola, ossia sembra un'abitudine. Quello che continuiamo a dire, quello che continuo a ripetere, è che qualcosa che dovrebbe essere anormale è diventato normale. Purtroppo è diventato normale attaccare delle strutture mediche, purtroppo è diventato normale attaccare delle scuole, purtroppo è diventato normale attaccare i mercati, le moschee. Ossia, cosa vuol dire? Ossia, dove c'è un assembramento di civili. Quindi questo è quello che sta succedendo: viene attaccato, vengono attaccate le zone dove si possono fare più vittime possibili, e soprattutto zone che, una volta attaccate e distrutte, non danno più supporto alla popolazione, quindi si indebolisce ancora di più la popolazione stessa. Questo è quello che sta succedendo, ossia si sta cercando di distruggere un popolo da dentro e da fuori. Il popolo siriano diventa, come dire, ostaggio dei giochi tra le varie fazioni in campo? È una guerra, no? Come tutte le guerre, sì, anche per la Siria questo accade. Torniamo appunto ai rifugiati di cui parlavamo prima, in che condizioni vivono? Come come le posso rispondere? Le posso rispondere dicendo sopravvivono a attacchi quotidiani, quindi bombardamenti aerei quotidiani, non hanno acqua, non hanno elettricità, non c'è modo di far arrivare cibo a loro. Anche durante gli ultimi mesi noi abbiamo denunciato, ci sono veramente dei tassi di malnutrizione molto alti dentro la Siria, per cui anche cibo manca e soprattutto manca assistenza sanitaria. Abbiamo visto che l'ultima tregua, insomma, è durata poco e ora, come dire, c'è di nuovo anche divisione nella comunità internazionale. Le Nazioni Unite in tutto questo, come dire, sembrano avere una voce molto debole. Non si tratta di avere voci forti, voci deboli, si tratterebbe semplicemente di fare in modo tale che tutte le parti del conflitto accettassero che gli aiuti umanitari possano entrare all'interno di un paese e possano raggiungere la popolazione. Ora, non dovrebbe servire un cessate il fuoco perché questo avvenga. Gli aiuti umanitari dovrebbero arrivare indipendentemente da un cessate il fuoco. Qua bisogna ricordarsi che 4 dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono coinvolti nelle operazioni militari in Siria e stanno fallendo nel rispettare le loro stesse risoluzioni sulla protezione dei civili, dell'azione medica, delle forniture di assistenza umanitaria e via dicendo. Dopo questo quadro a dir poco sconfortante, visto che insomma noi stiamo parlando dall'Europa che costruisce muri sia sul proprio suolo che li fa costruire anche appunto in altri territori, sto pensando all'accordo con la Turchia, che possibilità di fuga hanno le persone dalla Siria oggi? Non riesco a darle una risposta. La Siria oggi è una trappola mortale. Siamo veramente testimoni di un fallimento collettivo globale, non solo dentro la Siria ma anche tutto attorno, incluso qua in Europa. Bita so somate biko, bita bosso somate biko. Ngalakana masi somandanya. Nitara ikane soma ufunye. Nitara ikane soma ufunye, ikafunye na kwenye tefili umo. Heli nisira kaja, obero nemanyine uko. Nitara ikafunye na kwenye manyine kolokani. Siako kolokani zambila siako bledugu konete nyine maliko nitara ikafunyena kone yatakola baminke uye barodu mamiziki Belima baro minzikine, mamuso baro minzikine, konine nyeno fina tunka yamfa, nine ye miri wula, wodebe nini sodia, konete nyine wuko, kolokani. Baroruma miziki inia Obonya ye nini soria kane Konoroba mbeu Konete nyine uko Abarika Nete nyine kolokani inko Fasi yako kolokani inko Basi yako kolokani Zambila si yako bledugu Konete nyine mali So soma debiko, bita boso soma debiko, dombe uko sobike tumuni, kolokani, nete nyine kolokani. Torniamo insieme a Sweet Case of Hope e parliamo ora di un altro argomento, un argomento che può, come dire, aiutare a sensibilizzare sulle storie delle persone che fuggono da guerra e miseria. In particolare parliamo di disegni dalla frontiera che provengono da Lampedusa, fatti da Francesco Piobbichi, che è un operatore umanitario di Mediterranean Hope, che opera proprio nell'isola siciliana, dove ci sono il maggior numero di sbarchi. E questi disegni, per iniziativa dell'eurodeputata Eleonora Forenza, sono stati presentati ieri e oggi all'Europarlamento, quindi un luogo simbolo della incapacità europea di fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione. Noi abbiamo raggiunto Francesco Piobbichi, che appunto è l'autore dei disegni, e sentiamo come ce li presenta. Questi disegni nascono quasi per caso, nel senso che avendo iniziato a lavorare a Lampedusa ho iniziato a sentire storie molto, molto, a volte molto brutte, storie che non altrimenti sarebbero andate perse in un racconto, diciamo così, classico. E allora ho iniziato quasi per caso a disegnare con dei colori di una nota catena, diciamo così, di distribuzione di mobili, e ho iniziato a colorare questi racconti, e da lì sono nate queste tavole che poi ho iniziato a spiegare. Questo è il primo punto, cioè l'utilizzo del disegno per cogliere quelle cose che altrimenti, e quei significati che altrimenti altre forme espressive non riuscirebbero a tirar fuori. L'altro elemento è il rispetto di queste persone. Io sono abbastanza critico per chi mette le foto di bambini e persone che arrivano in sbarchi o vengono salvate, perché ritengo che siamo dentro una sorta di pornografia della frontiera, pornografia del dolore, non so come definirla, e quindi ho deciso di utilizzare il disegno per raccontare in maniera, diciamo, dignitosa la vita di queste persone. Ed infine perché comunque il disegno per me ha anche una funzione, mettiamola così, autoterapeutica, nel senso che riesco a non perdere la sensibilità attraverso il disegno, che altrimenti rischi di perdere, come dire, perché il livello di cose che vedi e che senti nel divenire quotidiano diciamo della frontiera rischia di farti vivere come normalità cose che normali non sono. Che siano esposti a Bruxelles, insomma nel centro dell'Europa, è abbastanza anche simbolico anche per, come dire, le politiche europee, che sul tema dell'immigrazione e dei rifugiati sembra veramente stentare, per usare un eufemismo. Ma diciamo, innanzitutto oggi dentro il Parlamento facciamo questa presentazione proiettandoli, e quindi è una forma diversa di una mostra statica, perché a me piace molto, io vengo da una cultura contadina, piace molto il racconto che facevano ad esempio i cantastorie a inizi del Novecento, no? E quindi li racconto, i disegni, e oggi iniziamo a fare questo lavoro perché ritengo che ci sia la necessità di fare un intervento di questo tipo, perché in qualche modo permette, diciamo così, raccontare la frontiera in un luogo dove l'indifferenza regna sovrana. Questi disegni l'hanno visti anche i diretti interessati, i protagonisti, le persone appunto che hai conosciuto, che ti hanno raccontato le loro storie? Alcuni sì, nel senso che ad esempio l'ultimo disegno che ho fatto, che non verrà esposto, però diciamo è per me molto significativo, racconto questo tipo di storia. Io ero a Melilla un anno e mezzo fa, ho conosciuto un ragazzo di 16 anni della Guinea Conakry che provava a saltare la rete, e poi dopo mi è diventato amico su Facebook. Questo ragazzo poi mi ha scritto quando ero a Lampedusa qualche mese fa, dicendo che sarebbe partito e sarebbe venuto in Libia. Io lo sconsigliavo di farlo, gli mandavo le notizie delle tragedie. Tra l'altro quest'anno è un anno in cui si muore molto di più dell'anno scorso, nonostante sono calati ad esempio i numeri degli arrivi. Nonostante questo, questo ragazzo era convinto di partire, e mi ha scritto l'ultima volta una decina di giorni fa. In uno degli ultimi sbarchi dei grandi sbarchi che ci sono stati a Lampedusa, uno sbarco con 1200 persone, mentre noi distribuivamo tè e biscotti e acqua, a un certo punto mi sono sentito chiamare Francesco, ed era lui. E io l'ho disegnato in mezzo a questa grande umanità, perché, come dire, queste cose che ti accadono in un mondo che è grande, terribile, ma al tempo stesso è piccolo, vanno segnalate, anche perché è vero che ci sono grandi tragedie, però ci sono anche storie come queste che danno speranza. Tra l'altro questo ragazzo ora è a Bologna, è in uno SPRAR di Bologna, mi ha scritto pochi giorni fa, e spero, diciamo così, che i bolognesi sappiano accoglierlo in maniera dignitosa, come hanno saputo fare e come continuano a fare. Allora magari lo inviteremo anche a Radio Città Fucico. Magari. E 500 catenelle d'oro hanno legato prima puntata di Suitcase of Hope termina qui, ma per riascoltarla potete andare su radiocittafugico.it, dove è disponibile il podcast. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 18, sempre su 103.100 di Radio Città Fucico. Suitcase of Hope. A bundle of belongings isn't the only thing a refugee brings to his new country.